Parliamo di insostenibilità del lavoro, è un ottimo spunto, ci arriva da un articolo pubblicato sull'ultimo numero dell'Essenziale intitolato Il nuovo rifiuto del lavoro, scritto dalla sociologa Francesca Coin con cui siamo al telefono, buongiorno. Buongiorno a voi. Il tuo articolo parte da un dato, cioè un aumento delle dimissioni volontarie. Sì, è un dato, diciamo che ha una validità più o meno globale, nel senso che il tema delle grandi dimissioni è stato sollevato anzitutto negli Stati Uniti, dove a partire dalla primavera di quest'anno ci sono state circa 20 milioni di dimissioni volontarie, e in quello che l'ex ministro del lavoro ha definito uno sciopero generale non dichiarato, quindi un processo non solo di dimissioni ma anche un processo di organizzazione del rifiuto del lavoro e dell'astensione dal lavoro. Dico organizzazione perché ci sono vari forum, il più importante ha circa 1 milione di lavoratrici e lavoratori, in cui si parla di strategie appunto di dimissioni o di modalità di farsi licenziare in modo tale da avere anche accesso poi all'indennità di disoccupazione. La situazione in Italia è lievemente diversa, nel senso che in Italia ci sono state nel secondo trimestre di quest'anno circa 485.000 dimissioni, che indicano un aumento dell'85% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno e del 10% rispetto al secondo trimestre del 2019, il che significa in buona sostanza che c'è un aumento delle dimissioni. Ma secondo me bisogna stare un po' attenti, perché queste erano dimezzate nel 2020 e invece hanno visto un andamento più o meno tendenzialmente crescente, sempre del 10% circa, dal 2016 in poi, quindi dal Jobs Act in poi. Secondo me questo è un dato fondamentale, perché poi gli Stati Uniti hanno 10 milioni di disoccupati, 10 milioni di posti di lavoro disponibili e un mercato del lavoro, come si sa, molto molto molto precario e molto dinamico. In Italia invece abbiamo 2,3 milioni di disoccupati più circa il 30% di disoccupazione giovanile, oltre a un sacco di altre problematiche. Quindi è più difficile lasciare il lavoro in Italia che negli Stati Uniti, perché non c'è un mercato del lavoro dinamico, il che significa che le persone con cui poi ho parlato, sto parlando, insomma, queste testimonianze di persone che lasciano il lavoro attraversano molto spesso dei processi di negoziazione interiore molto complessi, nel senso che appunto molto spesso si sa che non ce la si fa più a fare quello che si faceva, che magari ci sono livelli di burnout insostenibili, ma magari spesso è un salto nel buio, nel senso che non si sa quello che verrà dopo, si sa solo che non si può più continuare così. Eppure c'è chi questa scelta comunque arriva a farla, e tu appunto nell'articolo, anche attraverso testimonianze, indaghi le cause, per quello che io in apertura parlavo di una insostenibilità del lavoro. Esattamente questo è il punto, infatti secondo me bisogna anche un pochino ragionare, io insomma abbiamo usato su Essenziale questo titolo ad effetto il nuovo rifiuto del lavoro. È chiaro che però questo non nega un cambiamento copernicano, no? In quelle che sono le condizioni del mondo del lavoro da quando questo termine rifiuto del lavoro è stato proposto negli anni 70, in cui c'era, non dico una piena occupazione, però insomma c'era un mercato in crescita, mentre adesso appunto quello che riscontriamo è che per certi versi siamo arrivati a tal punto al limite di salari bassi, di taglio dell'organico, di sovraccarico di lavoro individuale, di condizioni di precarietà, di condizioni di vessazione nei luoghi di lavoro, perché stiamo parlando di mobbing strutturale in molti casi, che le persone dicono molto spesso, almeno quelle con cui ho parlato io, dicono: se devo essere povero e bastonato, almeno sono povero e basta, nel senso è quasi una ripresa di dignità. Quindi secondo me questa questione va analizzata non in modo spettacolare, nel senso non è che non è facile per nessuno lasciare il lavoro e trovarsi senza reddito, ma va analizzata all'interno delle trasformazioni che ci sono state. Sono trasformazioni in cui appunto l'Italia è l'unico paese europeo in cui i salari scendono invece che salire, si guadagnava di più nel 1990 che nel 2020, quindi siamo il paese in cui c'erano i call center di Taranto, in cui la paga oraria era di 33 centesimi all'ora. Quindi quando le persone mi dicono ma è una cosa sensazionale, cioè una cosa spettacolarizzante, no, il punto è esattamente che pagati così poco, pagati 33 centesimi all'ora, 92 euro al mese, è legittimo che ci siano persone che pensano: ok, ma se io guadagno così poco e però ci sono angherie così tante, perché poi appunto è l'epoca in cui parliamo di burnout, di disagio psichico, di psicofarmaci nei luoghi di lavoro, di controllo, pensiamo a Amazon, pensiamo ai fattorini, è l'epoca in cui comunque la pandemia ha visto condizioni di lavoro insieme al rischio personale, insieme alla salute a rischio, insieme al lutto, tutto questo incide nella disponibilità delle persone a continuare ancora così. E quindi qualcuno ha parlato di epifanie pandemiche, cioè di un contesto in cui la pandemia ha inciso appunto nel far dire ok, ho uno scatto di dignità oppure no. E tutto questo è un contesto multifattoriale, multicausale, no? Non c'è un fattore solo, ma non rende sorprendente il fatto che appunto per molte persone, per un tasso così elevato appunto di persone, la scelta tra continuare e tenersi un lavoro sottopagato a tutti i costi e dire ok, faccio dei sacrifici, mi faccio prestare dei soldi, ma a quelle condizioni non ci sto più, sia una scelta radicale ben comprensibile. Proprio su questo, una forma diciamo estrema, l'abbandono del lavoro, questo ci dice anche che c'è scetticismo nei confronti di lotte sindacali, di scioperi, insomma di mobilitazioni per migliorare le proprie condizioni di lavoro? Ma non lo so, nel senso, poi è un dato di fatto che l'aspetto delle dimissioni contiene sempre in sé un aspetto di rassegnazione e uno scatto d'orgoglio. È chiaro che questo è un processo individuale nei limiti in cui uno diventa collettivo. In Italia probabilmente siamo ancora dentro un contesto individuale, però appunto per esempio in molti luoghi di lavoro negli Stati Uniti si è dimesso tutto il personale, quindi nei luoghi presenti della ristorazione, Burger King, McDonald's, eccetera, si è dimesso tutto il personale, intendo che proprio ci siamo dimessi tutti, ci scusiamo per il disagio, un Burger King in Nebraska piuttosto che un McDonald's in cui diceva ci dimettiamo tutti, speriamo troviate qualcuno disponibile a venire a lavorare per $9 all'ora, buona fortuna. Quindi è un po' un miscuglio tra le due, nel senso che è un'arma diversa, secondo me, quando diventa un processo collettivo è semplicemente un'arma diversa. Secondo me il passaggio da fare in Italia è proprio quello di trasformarlo in un processo, da un processo individuale a un processo collettivo, il che significa semplicemente che magari dei forum di discussione oppure delle forme così sotto traccia di organizzazione possono essere create, inventate. In questa fase storica, secondo me, in cui il sindacato comunque arriva dove arriva, comunque sempre sottoposto molto a pressione, in cui sappiamo benissimo che i sindacati tradizionali non intercettano forme di elevatissimo sfruttamento, non è detto che questa sia una sfiducia nei sindacati, io la leggo semplicemente come una nuova arma, ma anche come un'arma di profonda rivolta, nel senso che appunto quando tutti i dipendenti di un luogo di lavoro con un numero di dipendenti relativamente basso, diciamo dai 10 ai 15 o ai 20, decide semplicemente di andarsene contemporaneamente, questa è una lezione che viene impartita e quindi è un po' così lo scatto d'orgoglio di tutti i lavoratori, non lo vedo in contraddizione con il sindacato tradizionale, cioè magari giustamente negli strumenti sì, ma lo vedo in continuità diciamo con gli obiettivi sindacali che sono sostanzialmente storici, quantomeno che sono sostanzialmente quello di migliorare le condizioni di lavoro, aumentare i salari, perché la pressione sui datori di lavoro c'è, inevitabilmente c'è, e quindi è il passaggio che secondo me è da fare appunto in contesti come quello italiano in cui questo processo è ancora sotto traccia ed è fortemente individualizzato, è che diventi un processo proprio di riflessione su quanto sia riformabile, quanto siano riformabili certi settori e quanto invece siano soltanto, come dire, dei messaggi da dare ai datori di lavoro che così semplicemente i lavoratori non ne trovano più, che si diano una mossa, che cambino loro per una volta condizioni di offerta di lavoro. Questo ci porterebbe anche a un sacco di riflessioni sul dibattito italiano attorno al reddito di cittadinanza, ma non vorrei andare fuori tema. Io, Francesca, ti ringrazio, ti auguro buon lavoro. Grazie a te, buon lavoro, buona giornata.